Io e Matteo di Ernesto Granese. Episodio numero 51. Il professor Miani, letto da Paolo Pellicciotti. Il professor Miani, preside del nostro istituto, era un personaggio d'altri tempi. Il suo passo era deciso, quasi militaresco, e il suo aspetto non passava inosservato. Alto, dinoccolato, con una fronte ampia e lucida che rifletteva la luce fioca dei neon del corridoio, sembrava uscito da un film degli anni 60. Non a caso, alcuni di noi lo avevano subito paragonato al comico inglese John Cleese, come notò un giorno ironicamente Matteo. Miani vestiva sempre allo stesso modo, con cura quasi maniacale. Abito grigio scuro, cravatta sobria, scarpe lucide come specchi e, d'inverno, un impermeabile beige che gli dava l'aria di un ispettore di polizia oppure di un agente dei servizi segreti. Un paio di occhiali dalla montatura spessa che si sistemava continuamente con un gesto preciso. Dietro quel viso serioso, però, si nascondeva un'intelligenza fuori dal comune. Era, come si dice, un intellettuale d'altri tempi, non un burocrate, non un preside qualunque, ma un filosofo per vocazione, prestato all'amministrazione scolastica come per necessità o per scherzo del destino. Dietro la sua apparente rigidità si celava una mente aperta, attenta ai cambiamenti del tempo. Era un acuto osservatore della realtà, soprattutto della gioventù, che lui studiava con lo stesso rigore con cui un entomologo osserva gli insetti sotto una lente d'ingrandimento. Era un esperto cultore di Jacques Maritain, un filosofo cattolico francese che nessuno di noi si filava e che non era neanche contemplato nei programmi scolastici. Allora, figuriamoci quanto ce ne fregava a noi di Maritain. La sua visione della moralità dell'agire educativo, come sinteticamente si chiamava il suo pensiero filosofico, coincideva grosso modo con la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica in tema di approccio educativo. Noi, che provavamo estrema e giustificata diffidenza nei confronti del Vaticano e delle cosiddette scuole dei preti, per semplificare, consideravamo Maritain una noia mortale. Sempre nel solco del pensiero cattolico, il nostro modello di riferimento era piuttosto quello di Don Milani e la scuola di Bibiana, ovvero la scuola e l'educazione aperta ai proletari e senza né voti, né interrogazioni, né discriminazioni di sorta. Di Maritain, il professor Miani diceva con orgoglio: è l'autore che più mi ha insegnato a pensare senza dogmi. In una piccola libreria del centro di Varese circolava un libretto firmato da lui, Educazione e Libertà, un saggio asciutto ma lucido che raccoglieva riflessioni su scuola, etica e futuro. Non lo pubblicizzava, ma se aveva l'occasione di nominarlo, abbassava lo sguardo con un mezzo sorriso e commentava. Un esercizio giovanile, nulla di più. Quando ci capitava di avere il Miani come supplente, alcuni di noi lo ascoltavano con timore reverenziale, altri con ironico distacco. Ma nessuno osava sfidarlo o contraddirlo. Ricordo ancora quando entrò per la prima volta nella nostra aula, nell'autunno del 1973. Una luce gialla filtrava dai vetri polverosi e faceva sembrare tutto irreale. Si fermò sulla soglia, si aggiustò gli occhiali e ci disse con voce solenne: «Signori, la scuola non è un albergo né un laboratorio per la rivoluzione, è un luogo di formazione, ricordatevelo». Alludeva allo sciopero proclamato il giorno prima, il primo dell'anno scolastico 1973-74, a cui molti di noi avevano partecipato. Poi, rivolgendosi a Matteo, fece un mezzo sorriso, o forse era un tic nervoso, e uscì. Nessuno capì se approvasse il nostro comportamento o se ci avesse appena rimproverato, sia pure con garbo e bonomia, come se in fondo la partecipazione degli studenti ai grandi temi della democrazia e della riforma della scuola non gli dispiacesse. Semmai disapprovava i modi. Miani tollerava ogni tipo di estremismo ideologico purché restasse confinato al piano delle idee. La teoria è importante, diceva. L'azione, invece, richiede maturità e senso di responsabilità, cose di cui voi ragazzi in larga parte difettate. Era convinto che la ribellione giovanile fosse una fase necessaria, persino salutare, segno di intelligenza e di spirito critico, forse perché anche lui, da giovane, aveva accarezzato ideali progressisti e militato nelle file del cattolicesimo democratico de Gasperiano prima di spingersi verso il pensiero più laico e critico di Maritain. Con me, però, Miani fu piuttosto ondivago. Un giorno di aprile del 1973 mi trovavo appena fuori l'istituto che distribuivo volantini quando ormai le lezioni erano iniziate. I volantini parlavano di riforme democratiche e abolizione del voto, di antifascismo e quant'altro. Niente di particolarmente sedizioso. Proprio quando stavo per finire il mazzo di 200 volantini, ecco che sbucò alle mie spalle proprio lui, Miani, con il volto da beccamorto e un'espressione truce. Ebbi come un sussulto. Poi lui, con calma glaciale, mi disse: «Granezio, venga nel mio ufficio quando ha finito». Quella volta me la cavai solo con un richiamo verbale. Ma circa un mese dopo mi rifilò una sospensione di 3 giorni perché sorpreso dalla mia prof di latino ad accarezzare i capelli di una ragazza seduta davanti a me durante una lezione. Quella lezione di latino, come tutte del resto, era così soporifera da poter far cadere in catalessi anche il più vigile dei cervelli. La prof, signora Alioli, arcigna e dall'aspetto inquietante, sembrava parlasse in sanscrito. La ragazza seduta davanti a me, Ornella Bevilacqua, era una splendida creatura dalle forme marmoree. Aveva bei capelli lunghi e biondi che brillavano sotto la luce al neon come un campo di grano. Lei se li faceva toccare, i capelli, e se ne stava buona buona, senza protestare. «Granezio!» tuonò all'improvviso la prof. «È la terza volta che ti becco a toccare Ornella. Ora vai dal preside, ne ho abbastanza di te. Fuori!» «Ma prof, che c'è di male? Non le ho mica toccato il culo!» stavo per risponderle. Poi, saggiamente, mi trattenni per non peggiorare ulteriormente la mia situazione. Nel frattempo, tutti i miei compagni, Ornella compresa, se la ridevano. Il professor Miani fu irremovibile. Mi convocò nel suo ufficio. Era una giornata di gennaio, fredda, e dalla finestra si vedeva il cortile deserto, con qualche chiazza di neve sporca agli angoli. «Questa è una scuola, non un salottino», disse, incrociando le mani. «E in una scuola ci si comporta educatamente, non da fidanzatini in calore». Mi sorprese con quella frase secca, quasi teatrale. In quell'occasione, il prof Miani fu inflessibile. Mi appioppò ben 3 giorni di sospensione e un 4 in latino, che si aggiunse ad una sfilza di altri 4, condannandomi di fatto a ripetere l'anno. Mi domandai quale punizione mi sarebbe toccata se, anziché i capelli, avessi toccato i seni di Ornella. All'epoca quella del professor Miani mi sembrò una punizione ingiusta, ma oggi, lo ammetto, la considero una decisione coerente con la visione che lui aveva della scuola, luogo delle idee, ma anche dei buoni principi. Curiosamente, il professor Miani mostrò maggiore comprensione quando, a fine trimestre, la mia pagella mi cadde sulla testa come una scure. Gravi insufficienze in quasi tutte le materie. Mi aspettavo da lui un'altra strigliata. Mi convocò nel suo ufficio, un luogo austero con scaffali stracolmi di libri, una macchina da scrivere Olivetti verde oliva e un quadro con un orribile ritratto del presidente Leone appeso al muro, dietro la scrivania. «Granezio», disse mentre giocherellava con una stilografica. «La sua intelligenza c'è, ma vaga», disse. «Ha bisogno di una direzione. Lei è come un fiume senza argini. Non lasci che l'acqua si disperda nel terreno». Quella frase mi colpì profondamente, tanto che ancora oggi la ricordo. Poi aggiunse: «Lei non è stupido, ha talento, ma lo spreca comportandosi da persona veramente immatura. Se lei va avanti così, la bocciatura sarà inevitabile. La prego, si impegni di più. Glielo dico per il suo bene». Ho chiesto alla professoressa Alioli di toglierle il 4 in latino. Non bisognerebbe mai confondere la condotta con il rendimento scolastico. Riconosco di essere stato un po' troppo severo con lei. Ora tocca a lei mostrarmi un po' di gratitudine, mettendosi d'impegno. D'accordo, Granezio? Alla fine mi salvai per il proverbiale rotto della cuffia. Quando ripenso a quegli anni, trovo che il professor Miani non fosse solo un preside. Era una figura tragica e comica, rigida e umana, fuori posto eppure perfettamente a suo agio nel caos controllato del nostro istituto. Aveva capito, forse meglio di noi, che l'educazione non è mai un percorso lineare, che si può inciampare, deviare, perfino naufragare, e che ogni errore può diventare apprendimento. E che persino una rivolta studentesca ha bisogno di ordine e disciplina. Matteo, invece, come prevedibile, brillava in tutte le materie. Il mio caro cugino, compagno e amico d'infanzia, era l'orgoglio del professor Miani. Voti altissimi, grande eloquenza, eccellente preparazione e conoscenza in tutte le materie, frutto non tanto di ore passate a studiare, quanto di grande intelligenza e astuzia. Persino Miani si prese la briga di elogiarlo pubblicamente nel corso di un consiglio di classe. Lo citò ad esempio così: «Matteo Granezio è la prova che si può essere critici e disciplinati, un giovane allievo di Marx, se vogliamo». Un giorno lo fermò nel corridoio e gli disse: «Giovanotto, non condivido una virgola delle sue idee, ma, per Giove, lei non finisce mai di sorprendermi. Mi tolga una curiosità. Ma lei vuole diventare il nuovo leader di Democrazia Proletaria o l'enfant prodige della filosofia contemporanea?» «Voglio rassicurarla», rispose lui. «Nessuna delle due. Comunque grazie per gli apprezzamenti e l'incoraggiamento». Mi raccontò tutto ciò in privato e io non potei fare a meno di provare invidia nei suoi confronti, fino a rodermi il fegato. Come facesse a raggiungere tali strabilianti risultati pur studiando così poco, rimaneva per me un mistero. Erano anni turbolenti quelli. Il vento della contestazione scuoteva anche i vetusti corridoi della nostra scuola. Volantini, assemblee, scioperi, idee che si rincorrevano nell'impazzimento generale. Miani non condannava, almeno non apertamente, quei fervori ideologici. Era un uomo di pensiero, convinto che ogni ribellione giovanile, se confinata nel campo delle idee, fosse non solo tollerabile, ma persino utile. «La giovinezza è tempesta, non bonaccia», disse una volta durante una riunione con i docenti. «E anche il mare agitato educa il marinaio». L'istituto magistrale, va detto, non era una scuola come le altre. Era un mondo a parte dove studenti e professori si conoscevano per nome e dove la politica, la pedagogia, la letteratura e l'educazione convivevano in un fermento continuo, un laboratorio di idee, sì, ma anche un campo minato. Le assemblee d'istituto in quegli anni erano vivaci e talvolta teatrali. Non si parlava solo di nuove forme di lotta o di utopie generiche. Si discuteva di riforme, di politica, di democrazia, di partecipazione, di rapporti tra studenti e docenti, di come umanizzare la scuola, lo studio delle materie e i suoi contenuti. Alcuni proponevano la rotazione delle interrogazioni, altri l'abolizione tout court di voti e interrogazioni. C'erano anche proposte veramente bizzarre, come quella ventilata da un simpatizzante anarchico di creare commissioni miste, studenti-professori, per trasformare l'istituto in una sorta di improbabile comunità educativa e non in una fabbrica di diplomi. Una volta un ragazzo salì sul palco con una proposta per istituire una giunta studentesca permanente con potere di veto sulle decisioni del consiglio d'istituto. Miani, che era presente in platea, alzò la mano e chiese la parola. In linea teorica, l'idea è interessante. In pratica, non sta in piedi. Vi ricordo però che anche le utopie richiedono burocrazia. Avete già pensato a chi verbalizzerà le sedute della vostra giunta? Chi sarà il moderatore? Chi lo eleggerà? Che poteri avrà? Cambiare la scuola è un diritto e persino un dovere. Ve lo dice uno che per formazione è un conservatore, ma per scavalcare l'esistente struttura di potere ci vuole il consenso e, in definitiva, l'approvazione del Parlamento. È la democrazia, bellezza. Seguirono risate, ma anche applausi. L'anno scolastico 1973-74 fu per me cruciale. Sapevo bene che un'eventuale bocciatura per me avrebbe significato la fine del mio percorso scolastico. Non avevo alle spalle una famiglia in grado di investire su ripetizioni o recuperi. Quella era per me l'ultima spiaggia. Ma non ero l'unico. Ricordo che anche Giuseppe Lodetti, un altro nostro compagno di classe, fu bocciato in prima magistrale. Lo rividi per caso qualche anno dopo, mentre camminavo per le vie di Parabiago. Era cambiato. Portava un cappotto elegante, un orologio vistoso. Aveva il passo sicuro di chi aveva trovato la propria strada. Scoprì che aveva rilevato l'impresa edile del padre e che stava per entrare in politica. Mi hanno chiesto di candidarmi nel PSI, disse stringendomi la mano con forza. Non credevo, ma la politica, se la fai con la testa, può essere più utile della scuola. Qualche tempo dopo divenne sindaco, il più giovane della storia del paese. Quel giorno, mentre lo guardavo stringere mani e sorridere a telecamere locali, pensai a Miani e a una delle sue massime preferite. L'educazione non è un percorso a senso unico, ma ogni strada, se illuminata dalla consapevolezza, può portare lontano. E così, forse, anche lui, a modo suo, sarebbe stato fiero di Giuseppe.